50 domande su Gesù. Che relazione ebbe Gesù con Maria Maddalena? Maria Maddalena dimostrò un grande amore per Gesù. Era stata liberata da lui da 7 demoni, lo seguiva come discepola e lo assisteva con i suoi beni. Con Maria, la madre di Gesù e le altre donne, fu presente ai piedi della croce quando crocifissero Gesù. Fu, secondo i Vangeli, la prima a cui apparve Gesù dopo la resurrezione, mentre piangente lo stava cercando. Da qui la venerazione come testimone del risuscitato che ha avuto nella Chiesa. Vedasi la domanda: chi era Maria Maddalena? Da questi elementi non si può dedurre né che fu una peccatrice né tantomeno che fu la moglie di Gesù. Quanti sostengono quest'ultima affermazione si appoggiano su scritti apocrifi, che però, forse con l'eccezione di un nucleo del Vangelo di Tommaso, sono posteriori ai Vangeli canonici e non hanno un valore storico, ma furono veicoli per trasmettere le dottrine di gruppi gnostici su Gesù e sui suoi insegnamenti. Secondo queste opere, che sebbene portino il nome di Vangeli, non sono propriamente tali, ma scritti che riportano presunte rivelazioni segrete di Gesù ai suoi discepoli dopo la resurrezione, tra questi Mariam o Mariamn o Mariam, non appare il nome di Maria Maddalena salvo che in pochi libri, è quella che capisce meglio queste rivelazioni. Per questo è la prediletta di Gesù, è quella che riceve una rivelazione speciale. In alcuni testi gnostici, Vangelo di Tommaso, Dialoghi del Salvatore, Pistis Sofia, Vangelo di Maria, gli apostoli si mostrano ostili a Maria Maddalena in quanto donna. Potrebbe essere la traccia di un'opposizione tra la fede della Chiesa, rappresentata da Pietro e dagli apostoli, e la fede gnostica che a volte è rappresentata nel nome di Maria Maddalena. Tutto ciò non ha niente a che vedere col sacerdozio femminile. La Chiesa non ha mai affidato alle donne ruoli gerarchici, cosa che invece accadeva talvolta in questi gruppi. Ma nessun elemento permette di collegare Maria Maddalena a tale questione ecclesiale. L'opposizione degli apostoli alla Maddalena di quegli scritti può invece essere intesa come il segno del misoginismo presente spesso fra gli gnostici. In altri Vangeli apocrifi, specialmente nel Vangelo di Filippo, Mariam, questa volta citata anche con il nome di origine Maddalena, è modello di gnostico, precisamente per la sua femminilità. Lei è il simbolo spirituale della sequela di Cristo e dell'unione perfetta con Lui. In questo contesto si parla di un bacio di Gesù con Maria, simboleggiando questa unione, giacché mediante questo bacio, una specie di sacramento superiore al battesimo e all'Eucarestia, lo gnostico si generava a se stesso come gnostico. Comunque, il tono di questi scritti è assolutamente lontano da implicazioni sessuali. Per questo nessuno studioso serio comprende questi testi come la testimonianza di una relazione fra Gesù e Maria Maddalena. È molto triste che questa accusa, che non ha alcun fondamento storico, giacché neanche i cristiani dell'epoca si videro obbligati a polemizzare per difendersi da essa, risorga ad intervalli più o meno regolari come una grande novità.